Santo Padre, il contributo della Chiesa per la crescita della civiltà è sempre stato di grande rilievo. Oggi, invece, in molti paesi si va sempre più diffondendo un atteggiamento di disprezzo e, sempre più, anche di vera e propria ostilità nei confronti della religione cristiana. Cosa è successo? Innanzitutto bisogna dire che lo sviluppo del progressismo moderno e della scienza ha creato una mentalità per la quale si crede di poter rendere superflua l'ipotesi Dio, per dirla con Laplace. Oggi l'uomo crede di poter tutto quello che prima aveva atteso unicamente da Dio. Per quel modello di pensiero, che si ritiene scientifico, le cose della fede sono arcaiche, mitiche, appartenente a una civiltà ormai superata. Così la religione, ed in ogni caso quella cristiana, viene relegata tra le cose del passato. Già nel XVIII secolo l'illuminismo proclamava che un giorno sarebbe scomparso anche il Papa, il Dalai Lama d'Europa. L'illuminismo avrebbe definitivamente eliminato simili arretratezze mitiche. È un problema legato all'autorità in una società liberista che non ammette le si dica più niente? Oppure il problema è di comunicazione, di una Chiesa che con valori apparentemente tramandati e con concetti come pentimento e conversione non riesce più a comunicare se stessa? Direi che si tratta di entrambe le cose. Quel modo di pensare di cui parlavamo, che ha registrato molte conquiste e che ha in sé molto di giusto, ha modificato l'atteggiamento di fondo dell'uomo nei confronti della verità. L'uomo non cerca più il mistero, il divino, ma si crede certo che un giorno la scienza ci spiegherà tutto quello che ancora non capiamo. È solo una questione di tempo, si pensa, poi avremo il potere su ogni cosa. In tal modo la scientificità è divenuta la categoria più alta in assoluto. Di recente, guardando il telegiornale, mi è venuto da ridere. Si annunciava che si sarebbe riuscita a provare scientificamente l'utilità della tenerezza della mamma nei confronti dei suoi bambini. Certo, indagini di questo tipo si possono considerare follie, ovvero un concetto di scienza errato, infantile e populistico, e tuttavia si tratta di idee che fanno intravedere un modello, e cioè un modo di pensare per il quale la fede nel mistero, nell'opera di Dio, tutta la dimensione religiosa, in quanto non scientifica, è giudicata non valida, priva di ragione d'essere. Questo è un aspetto. E l'altro? L'altro consiste nel fatto che proprio la scienza, dal canto suo, non riconosce i propri limiti. Molti scienziati oggi affermano che l'insieme delle cose da qualche parte deve pure essere giunto e che dunque dobbiamo porre di nuovo questa domanda. Con ciò si sviluppa una nuova comprensione del religioso, non come fenomeno mitologico di natura arcaica, bensì come scaturente dall'intimo rapporto con il Logos, cioè così come il Vangelo in realtà ha voluto ed annunciato la fede. Ma come detto, in questo grande contesto la religiosità deve rigenerarsi e trovare così nuove forme espressive e di comprensione. L'uomo di oggi non capisce più immediatamente che il sangue di Cristo sulla croce è stato versato in espiazione dei nostri peccati. Sono formule grandi e vere e che tuttavia non trovano più posto nella nostra forma mentis e nella nostra immagine del mondo, che devono essere, per così dire, tradotte e comprese in modo nuovo. Dobbiamo nuovamente capire, ad esempio, che il concetto di male ha davvero bisogno di essere riconcepito. Non lo si può mettere semplicemente da un canto o dimenticarlo, deve essere riconcepito e trasformato dal suo interno. Che significa? Significa che veramente viviamo in un'epoca nella quale è necessaria una nuova evangelizzazione. Un'epoca nella quale l'unico Vangelo deve essere annunciato nella sua razionalità grande e immutata e insieme in quella sua potenza che supera quella razionalità, in modo tale da giungere in modo nuovo al nostro pensare e alla nostra comprensione. L'uomo rimane certamente sempre lo stesso, nonostante tutti i cambiamenti. Non ci sarebbero così tanti credenti se nell'intimo del loro cuore essi non comprendessero questo. Sì, quello che la religione annuncia è ciò di cui abbiamo bisogno. La sola scienza, isolandosi e autonomizzandosi, non riempie tutta la nostra vita, né soddisfa unicamente un ambito, che certo ci offre grandi cose, tuttavia la scienza a sua volta dipende dal fatto che l'essere umano rimanga tale. Abbiamo visto che il progresso ha aumentato le nostre capacità, ma non la nostra grandezza e potenza morale e umana. Per mezzo dei grandi travagli del nostro tempo, riconosciamo sempre più la necessità di ritrovare un equilibrio interiore. Comprendiamo che abbiamo bisogno anche di una crescita spirituale. Anche nei tanti incontri con i capi delle nazioni ho percepito una forte coscienza del fatto che senza l'autorità religiosa il mondo non può funzionare.